Buongiorno a tutti gli amanti come me della Sacher Torte e benvenuti a questo appuntamento con la storia politica del nostro paese con Meridiano Meteo. Apriamo un dibattito sulle previsioni del tempo sulla nostra regione per la giornata di oggi. È previsto cielo tendenzialmente nuvoloso per tutta la giornata con deboli precipitazioni in serata, ma tanto io da Spinaceto col Vespino arrivo prima delle 4 e voi sarete tristi mentre io sono uno splendido quarantenne. Le temperature saranno comprese fra i 2 e i 16 gradi, ideale per un giro tondo sulla spiaggia. Venti forti, il libeccio aspettando il sol dell'avvenire, ma rimosso il Tirreno, quindi sul traghetto si balla la rumba.